24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:21 minuti, buongiorno anche oggi cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9 nella nostra puntata settimanale conclusiva. Saluto Filippo Aureggi in regia, anche oggi con noi. E di cosa parleremo nel nostro sondaggio? Beh, parliamo in qualche modo del voto delle amministrative. Ieri ci ha fatto sobbalzare, no? Anche ho visto, ha raccolto molto entusiasmo anche sulla nostra pagina di Facebook 24 mattino, questa idea dei limite di 2 mandati per i sindaci. E questo è un aspetto delle amministrative. Secondo voi è giusto? Sapete, i sindaci in Italia possono essere eletti solo per 2 volte, 2 mandati, 10 anni, poi devono cedere la mano. Ci sono degli escamotaggi incredibili, come quelli che cedono i comuni al figlio. E è giusto questo limite di 2 mandati? Ne parleremo alle 8:30, voi votate su radio24.it e andiamo a scoprire cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. Venerdì 20 maggio, il Sole 24 Ore apre su cosa? Internet, nuovo rischio bolla. LinkedIn ora capitalizza 9 miliardi ma fattura 90 milioni. La supervalutazione del social network che ha debuttato la borsa di Wall Street. Poi c'è ancora la campagna per le amministrative con Milano in primo piano sugli altri giornali. Per il Corriere della Sera, attacco di Bossi a Pisapia. Per Repubblica, Bossi, Pisapia è un matto. Il giornale, Bossi non molla, alla faccia degli avvoltoi. Per Libero, sinistra pronta a tassare. Per Il Messaggero, l'ultimatum della Lega. Il Fatto Quotidiano invece si concentra sul flop di Sgarbi. Il titolo è Sgorbi quotidiani, buttati 4 milioni nostri. Il Manifesto su Madrid, le proteste a Madrid, Madrid Real. Mentre l'Unità, Casa Letizia, sui guru, i consulenti di Letizia Moratti. Questi i titoli, insomma, amministrativi ancora certamente sulle prime pagine dei giornali, sarà così fino ai ballottaggi, dunque tenete duro ancora una decina di giorni. Da cosa voglio partire? Da 2 segnalazioni. Beh, una la troviamo su Libero a pagina 19. Fermati per droga, il giudice li libera. Sono grandi lavoratori. Questo è il titolo. La vicenda è a Treviso. È vero che in auto, racconta Alessandro Gonzato, avevano 21 grammi di cocaina, ma essendo lavoratori efficientissimi dovevano essere rimessi in libertà, altrimenti l'azienda da cui dipendono avrebbe potuto risentirne. E questa è la decisione, in sostanza, del giudice di Treviso, Umberto Donà, che ha disposto l'immediata scarcerazione di un 25enne e di una 26enne, trovati appunto in un posto di blocco con 21 grammi di cocaina. La loro liberazione hanno contribuito i rispettivi datori di lavoro, che di fronte al magistrato si sono sperticati in lodi per i 2 giovani, che sì, si drogano, questo non va bene, ma nei loro impieghi sono insostituibili. Eppure, proprio lì sul lavoro, i 2, per loro stessa ammissione, consumano abitualmente la droga. Ma è a uso personale, si sono difesi così, anche se erano 21 grammi. Ma noi la fumiamo e dunque la fumiamo come il crack e dunque ne perdiamo buona parte rispetto a chi la sniffa. Insomma, il risultato. Fermati per droga, il giudice li libera perché, difesi anche dai datori di lavoro, sono dei grandi lavoratori insostituibili sul lavoro. Questa storia la trovate su Libero. Mentre sul Corriere della Sera si racconta la storia di un ministro britannico, il ministro per l'ambiente, peraltro, Chris Hunt, che ha fatto che cosa? Beh, ha fatto una cosa che per la verità in Italia fanno anche in molti, diciamo la verità. Qualche anno fa, diversi anni fa per la verità, è stato pizzicato dall'autovelox e per evitare di farsi togliere i punti dalla patente, che cosa ha detto? Che al volante c'era la moglie. Il problema nell'articolo a pagina 32 del Corriere dal titolo Il ministro, la separazione e la bugia sull'autovelox, ecco i furbetti dei punti patente. Il problema è che di recente poi c'è stata la separazione dalla moglie e la moglie, diventata ex moglie, si è vendicata svelando al mondo intero, alla stampa, di questo vecchio trucchetto del ministro che ora è nella bufera, è nel centro delle polemiche, rischia di doversi dimettere per questa vicenda, vicenda, ripeto, di pura vendetta da parte della moglie, che dice: sapete che è successo vari anni fa, quella multa all'autovelox, non ero io al volante ma era il mio ex marito, attuale ministro. E vabbè, e da qui Lorenzo Salvia racconta che è un po' qualcosa che si fa anche in Italia, no? Ci sono dei casi come ad Imperia, dove una moto che sfilava 137 all'ora, secondo il proprietario, era guidata da una signora di 71 anni, al che gli agenti l'hanno convocata, hanno visto che questa signora poverina, con le forze fisiche che aveva, manco riusciva a mettere la moto sul cavalletto. Oppure a Lucca, dove un SUV pizzicato a 189 all'ora era alla guida di questo SUV, ci sarebbe stato un disabile che però, convocato quando ha visto arrivare una multa a 3-0, ha detto, ha ammesso di avere venduto, di essere stato raggirato per 70 euro i dati della sua patente a un'altra persona. E addirittura ci pare che ci sia su eBay o comunque su internet un mercato di punti, c'è gente che offre i propri punti se venite pizzicati dall'autovelox, a dire dite pure che è la mia patente, tanto io non la guido, tanto non la uso, eccetera. C'è chi vende anche dei corsi di recupero punti. Insomma, quello che ha fatto questo ministro inglese, sbugiardato dalla moglie dopo che si è separata, cioè una vendetta veramente, una ripicca anche di bassissimo profilo, quella dell'ex moglie. Insomma, pare che ha fatto scuola in Gran Bretagna, ma fa scuola anche in Italia. In primo piano. E allora eccoci qui alle 7:36 minuti. Il tema delle amministrative terrà banco da qui a domenica prossima, o meglio a venerdì, forse ultimo giorno di campagna elettorale, e soprattutto la vicenda di Milano, la sfida di Milano tra Moratti e Pisapia al ballottaggio. Ieri i toni si sono un pochino riaccesi, perché molti giornali puntano sul matto dato da Bossi, che poi ha rettificato a Pisapia. Bossi sfida Pisapia, la sua Milano Zingaropoli, così titola per esempio il Corriere a pagina 8. Tra l'altro, in un retroscena di Repubblica, Francesco Bei a pagina 3 racconta di come su questo ci sia stato il gelo di Berlusconi sull'alleato. Abbiamo già sbagliato troppo, basta dare del matto a Pisapia, basta parlare di Zingaropoli, non è con gli insulti che riconquisteremo il cuore dei milanesi. Questo sarebbe il cambiamento di rotta a cui punterebbe Berlusconi, che aveva pensato anche, secondo Repubblica, un'ipotesi di una grande manifestazione a Milano. Invece preferirebbe, pare ora, una serie di messaggi, interventi, interviste in TV per fare capire, insomma, la differenza sui programmi soprattutto. Cioè c'è una riflessione sul fatto che ci sia stato un errore nella campagna elettorale puntando tutto sullo scontro. Intanto c'è da dire che ieri Bossi e Berlusconi si sono di fatto finalmente visti, incontrati, hanno parlato, tutto bene, dicono. Certo, poi in realtà sui giornali ci sono anche retroscena di altri scenari. Dal punto di vista dei programmi, già si vede qualcosa di più. Basta vedere per esempio la Padania, 10 domande a Pisapia, cioè la Padania, con vale a dire l'organo di stampa della Lega, punta proprio così ai programmi. Ecco le domande che facciamo a Pisapia sulla questione dei disoccupati, dei precari, sui vigili, sui biglietti del tram, sull'Ecopass. E sull'Ecopass, per esempio, l'attuale sindaco Letizia Moratti ha risposto, ha detto toglieremo l'Ecopass, quindi l'ingresso per il centro di Milano sarà gratuito per i residenti. Insomma, pare che a leggere i giornali si torni a parlare di cose un po' più concrete rispetto alle accuse anche personali che sono volate durante la campagna elettorale del primo turno. Libero la mette così: Pisapia alzerà le tasse su casa, ufficio e auto. È il nuovo Vincenzo Visco. Su questo punta Libero in un articolo di Franco Becchesi, il suo vice direttore. Sinistra pronta a tassare, così è l'apertura. Su che cosa? L'aumento della tassa di circolazione del centro per i pendolari e i turisti, il ritocco delle imposte ecologiche, una super banca dati fiscale per incrociare redditi, tenore di vita, proprietà immobiliare e imposte versate. Queste, secondo Libero, sono gli spauracchi che ci potrebbero essere con una conquista da parte di Milano da parte del candidato del centro-sinistra. Sta di fatto che, come detto, si sono visti Bossi e Berlusconi, tutto bene. In realtà sui giornali basta leggere, non so, i Francesco Verderami sul Corriere, oppure anche un'intervista che Repubblica fa al vice sindaco di Treviso Gentilini. C'è qualcosa che sotto traccia invece fa pensare al contrario. Francesco Verderami si concentra sempre sul ruolo di Tremonti. Il ruolo di Tremonti è l'alleanza del futuro. Tremonti, che racconta Verderami sul Corriere, è visto come una sorta di Ibrahimovic al quale lanciare la palla per fare gol. E l'incontro tra il Cavaliere e Bossi non poteva che fotografare due visioni diverse del presente e del futuro, con il Premier all'apparenza fermo nella determinazione di andare avanti fino al termine naturale della legislatura e col leader della Lega intenzionato a rinnovare la fedeltà all'alleanza, ma a patto che si facciano le riforme, perché solo così possiamo proseguire. Cioè, racconta il Corriere, c'è un'ala forte della Lega che secondo Verderami è personificata da Maroni e da Calderoli, che invitavano Bossi a predisporre a Berlusconi una staffetta col ministro dell'economia Tremonti dopo il ballottaggio di Milano. Non siamo pronti, non ci sono le condizioni, avrebbe detto Bossi, che quindi su questo frena. Anche per il Riformista, che titola in prima pagina Tregua armata, questo è il senso dell'incontro tra Bossi e Berlusconi, con Berlusconi che ancora ribadisce: non posso cedere ai ricatti, anche se perdiamo Milano, la proposta di una staffetta con Tremonti o addirittura di Tremonti vice premier è irricevibile e non voglio sentir parlare di successioni. Di successione invece parla esplicitamente Giancarlo Gentilini, vice sindaco a Treviso della Lega, che critica la campagna elettorale, i toni, si è sbagliato, dice addirittura un'idea criminale quella a Napoli della sanatoria delle case abusive. E poi ecco cosa dice Gentilini in questa intervista a Repubblica: l'erede naturale di Berlusconi è Tremonti, così come quello di Bossi è Maroni. Se i ballottaggi vanno male bisogna cambiare, il premier si tiri da parte e ridiscutiamo il programma di governo. Per Libero addirittura ci sarebbe stata una cena Giulio Tremonti Bossi nel quale si è parlato proprio del futuro politico, e sul futuro politico quindi vuol dire anche della successione a Berlusconi. Libero la mette in prima pagina questa cena segreta Bossi-Tremonti. Beh, segreta, oddio, poi mercoledì scorso c'erano Bossi, Calderoli, Maroni, Giorgetti, Castelli, Cota, Zaia della Lega, c'era Massimo Ponzellini, presidente di Impregilo e Banca Popolare di Milano, è spuntato a un certo punto anche il ministro Stefania Prestigiacomo, quindi insomma segreta poteva rimanere ben poco questa cena. Il problema è che, racconta Libero, Bossi era stato invitato lo stesso giorno a cena a parlare, a discutere da Berlusconi, e invece Bossi ha preferito cenare con Tremonti, ecco subito che al ministero, tra l'altro una cena al ministero, cioè non in giro però, ma una convocazione al ministero dei big padani e della Prestigiacomo per parlare di Milano, del governo dopo il flop elettorale. Cena Giulio Bossi, sul piatto c'è il CAV, il Cavaliere, questo titola, così titola Libero. Mentre sempre in tema di campagna elettorale, il Fatto Quotidiano, con un articolo di Gianni Barbacetto, si concentra su una questione che riguarderebbe il giornale. Secondo il Fatto Quotidiano, gli attacchi che il direttore del giornale Sallusti ha fatto anche a Formigoni, abbastanza espliciti, chiedendo adesso si deve impegnare di più, soprattutto perché può mobilitare l'elettorato dei CL che è mancato invece nel primo turno. Beh, questo secondo Gianni Barbacetto ha fatto infuriare proprio il mondo di CL, tanto che ora CL vuole lo scalpo di Sallusti. Si parla di una possibile pressione per far togliere la direzione del giornale a Sallusti, e si fa anche il nome del possibile successore, forse fantascienza, insomma, quella di Gianni Barbacetto. Comunque si parla già di Piero Ostellino come possibile sostituto di Sallusti al giornale. Mentre invece l'Unità su che cosa si concentra? Si concentra su quelli che vengono definiti i guru di Letizia Moratti. Viene messo in prima pagina la foto della Moratti casa Letizia, e in particolare ci si concentra su chi? Su Mario Azzoni. A pagina 8, in un articolo, Azzoni nello staff di Letizia. Chi è questo personaggio? Secondo Laura Matteucci dell'Unità è un signore cinquantenne, né medico né psicologo, che sarebbe in grado di stabilire anamnesi del cliente attraverso la vista della persona, tumori compresi, che vedrebbe spiriti aleggiare, il cui sito afferma senza ombra di ironia: noi otteniamo dal cosmico ciò che domandiamo con sincerità. È anche il presidente di Casa Letizia. uno dei quartier generali di Lady Moratti, e l'unità lo definisce un novello Rasputin con misteriose influenze sulla famiglia che ha regnato finora Milano. Nei sussurri lo chiamano il mago, in pubblico è il più Yankee spin doctor. Già un decennio fa si propose al Maurizio Costanzo Show come sensitivo con riferimento a indimostrabili poteri sovrannaturali. La pranoterapia è una pratica di medicina alternativa che consiste nell'imposizione delle mani sulla parte malata per permettere il passaggio del prana. Insomma, ecco, un pranoterapeuta, oltre a Red Ronnie, alla comunità di San Patrignano, questo dice l'unità, la Moratti è in mano ai consiglieri siffatti. Insomma, gli attacchi, anche bassi, continuano e continueranno fino al giorno del ballottaggio. Ci fermiamo per il traffico. In primo piano. Il Sole 24 Ore, come detto, apre su il rischio di nuova bolla finanziaria su questa capitalizzazione di LinkedIn che ha debuttato la borsa di Wall Street col botto, no? La quotazione ha guadagnato il titolo il 109%, ha raddoppiato il suo valore in un solo giorno, ha superato tutte le previsioni degli analisti, ma a questo debutto shock in positivo fa già intravedere appunto il rischio che sulle società di internet ci sia una nuova bolla speculativa. Era offerta $45 per azione, ha chiuso a $94.25, una capitalizzazione di 9 miliardi, ma fattura appena $90 milioni di dollari. Allora, su questo ci sono tutti i rischi della speculazione che Daniela Roveda e con un'analisi di Walter Riolfi commentano a pagina 5 del Sole 24 Ore. E poi vanno a segnalare che cosa? Beh, intanto l'allarme lanciato dal ministro dell'economia Tremonti, che dice il Sole 24 Ore con soddisfazione, raccoglie anche un po' la campagna che il Sole ha fatto in questi giorni riguardo alla questione dei fermi amministrativi dei veicoli intestati ai contribuenti, no? Per le questioni dei tributi inevasi, le cosiddette ganasce fiscali. Ebbene, Tremonti ha detto ci sono troppi eccessi con le ganasce fiscali, tanto che Marco Mobili in prima pagina racconta: il ministro raccoglie così il malumore di imprese, professionisti, cittadini sulla riscossione, su alcuni aspetti soprattutto del sistema legati proprio alle partite minime, che finiscono per determinare effetti opposti a quelli desiderati in termini di odiosità nelle forme di pretesa. E così Tremonti ha annunciato ieri che ci sono le possibili correzioni sul tavolo, basta a un uso senza limiti delle ganasce fiscali, stop agli interessi sugli interessi sempre più vicini, ha detto, a forme di anatocismo, e sanzioni aggi da ricalibrare. Dunque, ha detto il ministro dell'economia, il legislatore dovrà mettere mano, c'è la possibilità di mettere mano a delle novità per evitare delle vessazioni ai contribuenti veramente eccessive. E infine voglio segnalare dal Sole per il terzo giorno consecutivo queste storie di progetti bloccati in Italia e che fanno dell'Italia un paese bloccato nel quale poi gli imprenditori stranieri faticano, soprattutto le grandi compagnie, a investire. Il caso dell'IKEA a Pisa, il caso del blocco della centrale Enel a Porto Tolle. Oggi Jacopo Giliberto a pagina 17 si concentra sulla vicenda di British Gas con lo stallo del rigassificatore a Brindisi. Uno stallo per il quale si sono già spesi 250 milioni di euro in 11 anni per non riuscire a gettare un solo metro cubo di cemento, a non saldare neanche una trave d'acciaio. È solo che British Gas ha superato il punto di non ritorno, perché si fatica a questo punto a fare un voltafaccia dopo aver investito e speso 250 milioni, è facile dire vabbè, ce ne andiamo via, ma tutti questi soldi per un rigassificatore che avrebbe dovuto importare 8 miliardi di metri cubi di metano egiziano dal 2007, un rigassificatore che non esiste ancora, doveva essere già attivo dal 2007, non è stata messa neanche una trave per l'appunto, e dice ora British Gas: siamo pronti a dare battaglia, a usare tutte le armi che abbiamo, ci rivolgeremo anche a Bruxelles, intenteremo causa contro l'Italia, dice l'amministratore delegato di British Gas Italia, Damiano Ratti. E questo poi rischiamo anche di pagare dei sontuosi danni. Vabbè, che cosa c'è di cronaca? C'è molto la polemica di Sgarbi, programma flop, Il titolo del Fatto Quotidiano è Sgorbi quotidiani, pochi spettatori, subito una puntata, cancellato. La polemica è, come la mette il quotidiano a pagina 2, cancellato Sgarbi in TV, ma ci tocca anche pagarlo. Sgarbi su questo fa un intervento sul giornale a sua firma, ieri era la Zanzara da Giuseppe Cruciani. Fa un'intervista anche a Repubblica che dice i costi, e tutti a parlare dei costi, ma non mi risulta che critichino i teatri quando pagano Muti o Masel. Io sono meglio di Muti. In TV seguo i miei pensieri, se mi dicono di tagliare li mando a quel paese, se devo sottostare ai gusti del pubblico allora. A scuola, se dai retta agli studenti, non vogliono parlare di Parini, ma di Jovanotti. Lo spettatore è lo studente, stabilire il tema è la sfida. Insomma, Vittorio Sgarbi che comunque dice tutta colpa mia, va bene, hanno chiuso, però la questione dei soldi, sulla questione dei soldi dice vabbè, che problema c'è se mi devono pagare, pare 4 il Fatto dice 4 milioni di euro. Sulla TV c'è anche tutta la polemica di Al Gore, il padre di Current, che verrà oscurata da Sky. Sky dice ascolti bassissimi. Current invece con Al Gore in un'intervista a Repubblica dice no, è censura perché noi critichiamo il governo. Vabbè, trovate anche questo, trovate anche molto di Stroscana ancora, con oggi l'ex direttore dimesso, sì, dal Fondo Monetario che esce dal carcere su cauzione, paga 6 milioni di dollari per questa cauzione. C'è anche, e racconta la sua storia alla Stampa, a pagina 19, o meglio la riporta la Stampa, era feroce e rozzo, voleva soltanto bianche americane. Parla sotto una foto che direi è vietata ai minori di 35-40 anni più o meno, pubblicata dalla Stampa. Parla chi? Christine Davis, la Madame di Manhattan, colei che ha fatto il più grande giro di prostituzione mondiale, dice era anche un mio cliente, ma molte ragazze che gli mandavo si lamentavano perché era violento, rozzo, feroce e non hanno più voluto poi incontrarlo. Quando mi chiamava, ci mettevamo d'accordo, un paio di ore, $1,200. E insomma adesso arriva anche proprio tutte che parlano, insomma non sarà facile uscire da questa storia per Dominic Strauss-Kahn. Allora ci dobbiamo fermare, voglio dirlo, ma l'abbiamo scritto anche su Facebook, lo sapete, Lars von Trier, quello che ha detto Hitler mi sta simpatico, è una persona che Kahn ha detto è una persona non grata, e il Festival del Cinema di Roma ha detto qui a Roma non metterà piede. Insomma, poi uno si assume anche le responsabilità delle proprie dichiarazioni. Voglio ricordare solo in chiusura che da oggi esce in allegato al Sole 24 Ore il nuovo numero di 24, è dedicato, la parola chiave in questo caso, agli italiani, gli italiani che ce la fanno, gli italiani, l'Italia che funziona, quelli degli innovatori, degli artigiani, dell'industria che riesce ad andare avanti, questi italiani sono i protagonisti del numero di 24 in allegato al Sole 24 Ore. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:21 minuti, saluto per la nostra intervista l'onorevole Paola Concia del Partito Democratico. Buongiorno onorevole, benvenuta. Buongiorno, benvenuti a voi. Senta, grazie. Senta, terza bocciatura della legge sull'omofobia. Lei ha proposto anche un nuovo testo che allargava le categorie, diciamo, da tutelare in caso di aggressioni, ma c'è stata una nuova bocciatura e lei si è dimessa da relatrice. Mi sono dimessa, appunto, è stata la seconda bocciatura in due giorni in commissione, e io non potevo continuare a fare la relatrice. Ora sono relatrice di minoranza e il tutto, la battaglia politica passa in aula. Sì. Adesso si vedrà. Però il tema in questione è questo. Molti si pongono: è davvero necessario che venga posta un aggravante per reati commessi perché sono motivati da un odio verso chi, da un pregiudizio sessuale? Sì, è molto semplice da spiegare. Nel mondo, non è che in Italia, per esempio tutti i paesi europei tranne noi e la Grecia hanno questa legislazione, non è che sono matti. Allora, è semplicissimo, nel mondo esistono delle categorie di persone purtroppo diciamo più soggette a rischio di discriminazione, soprattutto pregiudizi e violenze. Sono le persone di un altro colore della pelle, di un'altra religione, di un'altra nazionalità, appunto gli omosessuali, i transessuali e anche le persone disabili o per esempio per ragioni di età. E questo è un dato di realtà, purtroppo, è la realtà del nostro tempo e questa è la ragione per cui esistono queste leggi che fanno sì che si punisce chi commette reati violenti contro quelle persone più severamente, esclusivamente in ragione della loro condizione umana. Certo, certo. Si puniscono più severamente perché, si è mossi da questo odio per il fatto che una persona si trova in quelle condizioni. È la diversità, purtroppo. Questo purtroppo mi piacerebbe tanto che questa cosa non dovesse esistere questa necessità. Noi siamo nel nostro paese, tra l'altro, purtroppo la violenza omofoba, è perché di violenza si tratta, questa legge punisce solo gli atti violenti, purtroppo è in aumento perché non esiste non esiste il deterrente come esiste negli altri però paesi. Sa nelle opposizioni, per esempio, l'onorevole Costa del Popolo della Libertà ha detto: beh, ma se io aggredisco una persona, magari l'aggredisco perché sono un violento e l'aggredisco e basta, per dimostrare che la mia aggressione ha un'omofobia di fondo, questa persona che magari vuole vivere la sua sessualità in maniera intima senza nessuno deve dichiararsi omosessuale, ma e quindi guardi, e questo è una violazione quasi della sua privacy. Ma vabbè, questa è una stupidaggine, naturalmente. No, nel senso, gli spiego, non è che i giudici sono cretini. Naturalmente questo avviene quando una persona, è una cosa alla luce del sole, evidentemente. Sì, quando però si sa che l'omosessualità è dichiarata. Cioè, l'atto violento avviene appunto in ragione dell'omosessualità o transessualità del soggetto offeso, ma quando appunto quella persona, per esempio, se la vicenda mia di Riccardo, quando noi stavamo mano nella mano, non è che io stavo vivendo alla luce del sole l'amore per la mia compagna. Allora, se fossimo state due ragazze in una strada buia, se fosse stata un'altra vicenda, è chiaro che quella e poi lui mi ha insultata, capisce? Cioè, non è che ci ricordiamo, voi avete subito, diciamo, un'aggressione per fortuna solo verbale, insomma, si è diventata questa, lei e la sua compagna. Verbale, ma capisce che, diciamo, ecco, sono quelle situazioni, oppure appunto, che ne so, i ragazzi vengono aspettati fuori delle discoteche gay. No, è successo sempre succede sempre in situazioni molto esplicite. Senta, però dal punto di vista politico le chiedo in conclusione, il fatto che, non so, il ministro Carfagna dica io la voterò, cioè non seguendo la linea del partito, oggi Nunzia De Girolamo anche del PDL, io la voterò, anche Alessandra Mussolini, le donne Bonner, anche Miciche però Quindi non solo le donne, insomma. No, sì. Però, no, quindi non è una questione neanche di partiti, di steccati di partiti, è una questione proprio che, per la quale ognuno ha una sua opinione personale, insomma. Beh, io penso, perché io sono 3 anni che cerco di spiegare che questa non è una legge di una parte politica, ma è una legge di civiltà intorno alla quale che deve essere condivisa da tutti, esattamente per questa ragione, perché sono quel minimo di leggi di civiltà e che hanno a che fare con i diritti umani, che non credo, mi auguro che in una democrazia compiuta appartengono a tutte le forze politiche democratiche, no? E intanto staremo a vedere. Io intanto la ringrazio, onorevole Paola Concia, e poi vedremo come procederà questo iter di questa legge, insomma, un po' travagliato, questo per usare un eufemismo per il momento. Sì. Buona giornata. Buona giornata intanto del Partito Democratico, la legge sull'omofobia, mentre noi dopo la pubblicità il metodo di cosa parliamo, vogliamo tornare sul tema dell'intervista di ieri, perché ha riscosso molto successo, gente che su Facebook ci ha scritto, ha commentato, insomma, ma questa questione, questa legge in Italia che impone un limite di 2 mandati per i sindaci, cioè solo i sindaci, i parlamentari possono rimanere 150 anni, anche, non so, presidenti di regione. Invece i sindaci dopo due mandati devono fare le valigie e lasciare libera la poltrona. O qualcuno trova gli escamotage e, che ne so, fa eleggere sindaco, che ne so, il figlio, e dice tanto ci penso tutto io. Questa è la dichiarazione del sindaco, dell'ex sindaco di Bonea in provincia di Benevento. Ma c'è chi dice è giusto questo ricambio politico, c'è chi dice no, è sbagliato, perché soprattutto nei piccoli comuni non c'è questo ricambio di persone pronte a fare politica. Allora, se uno è bravo, perché dopo 10 anni dobbiamo mandarlo a casa? Che ne pensate? È giusto questo limite di 2 mandati per i sindaci? Di questo discutiamo nel nostro sondaggio. Votate su radio24.it. Ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità. 800 24 00 24. 24 mattino. Alle 8:36 minuti. Allora, vi chiediamo nel nostro sondaggio: secondo voi è giusto porre un limite di 2 mandati, come avviene per i sindaci o anche i presidenti delle province, che non sono rieleggibili consecutivamente per 2 mandati? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. È un tema che già da ieri ci fa molto discutere. Qualcuno dice è giusto il ricambio della politica, altri dicono ma come, per i parlamentari questo non vale, per altre cariche non vale, e poi magari nei piccoli comuni, soprattutto laddove c'è un amministratore bravo e magari non se ne trovano tantissimi disposti a fare politica, non dico a Milano, Roma, Napoli, Bologna, Torino, ma nei piccolissimi comuni uno è un bravo amministratore ma deve cedere la mano dopo 10 anni, 2 mandati, e questo non va bene. Poi c'è anche chi trova gli escamotage, sappiamo, no? Ieri ne abbiamo parlato col sindaco, 10 anni a Bonea, provincia di Benevento, e chi è stato messo lì? Il figlio 18enne, che si dice non sa neanche cosa sia una delibera, ma il padre dice ora farò tutto io, anche se non sono più sindaco, al suo posto. Non si deve preoccupare mio figlio, non si deve preoccupare il signor sindaco mio figlio. Allora ne parliamo con Mauro Guerra, che è coordinatore nazionale della Consulta ANCI dei piccoli comuni. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, è anche vice sindaco di Tremezzo in provincia di Como. Esatto. Buongiorno Guerra. Voglio salutare Massimo Bugani. Buongiorno Bugani, è stato il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle a Bologna. Buongiorno a voi. Sento però un'eco fastidiosa, se ha la radio accesa deve spegnerla Bugani. Quanti voti ha preso? Ha fatto il pieno di voti, no, se non sbaglio? Quasi 20.000 voti, sì. Tradotto in percentuale? 9,50%. Voglio salutare anche un economista ricercatore all'Università di Tor Vergata a Roma, che ha fatto uno studio insieme a un collega, Stefano Gagliarducci, su questo tema. Decio Coviello, buongiorno Coviello. Buongiorno. Senta, dottor Coviello, partirei proprio da lei, perché voi avete fatto uno studio mettendo a raffronto tra chi ha quei comuni che 2 mandati e il sindaco via, e chi invece qualche anno fa, visto che la legge non era retroattiva, ha mantenuto i sindaci invece con più mandati, 3 mandati. Il risultato, i 3 dati più evidenti della differenza tra chi ha mandato via il sindaco dopo 2 mandati e chi no, quali sono? Allora, sì, abbiamo sfruttato la riforma del 93, il modo in cui è stata implementata, e sostanzialmente confrontando 2 sindaci, uno con 3 mandati e uno con 2 mandati, quindi eletti 2 volte, o eletti soltanto una volta, rieletti soltanto una volta, e troviamo che in un comune dove il sindaco è stato per 3 mandati, rispetto a un comune dove il sindaco è stato 2 mandati, ci sono meno partecipanti alle gare d'asta, ci sono prezzi di aggiudicazione delle gare di appalto più alte, sì. E poi troviamo che vincono con probabilità più alta sempre le imprese locali, e queste imprese guadagnano fette di mercato più grandi. Cioè laddove il sindaco rimane più a lungo. Esatto. Ci sono queste, diciamo, criticità del mercato, le vogliamo definire così, no? Sì, noi diciamo abbiamo riportato questa evidenza empirica, no? Analizzando una banca dati sui lavori pubblici, e ha mostrato che questo mercato degli appalti pubblici viene sistematicamente modificato e si deteriora nei comuni dove i sindaci stanno al potere per 3 mandati rispetto ai comuni dove i sindaci sono stati al potere per 2 mandati. Allora, questa, diciamo, è una prima certificata da alcuni dati della vostra ricerca, se vogliamo dire accusa, che voglio girare molto bonariamente a Mauro Guerra. Cioè laddove non c'è ricambio anche nella classe dirigente, nella classe politica, anche a livello locale, e si rischiano di incrostarsi quelle situazioni di libero mercato per cui vincono sempre le stesse imprese, vincono gli appalti delle stesse imprese. Mauro Guerra, come replichiamo a queste accuse? Beh, dove ci sono incrostazioni sarebbe bene che intervenisse la Procura della Repubblica a verificare se ci sono dei reati. No, la prima considerazione è questa. Guardi, intanto il sindaco non dovrebbe c'entrare nulla. Con gli Ma magari non sono reati, cioè voglio dire che vinca la stessa impresa. Non è questione di reati, però... No, ma intanto io le dico questo, il sindaco non dovrebbe entrarci nulla nelle procedure d'appalto, insomma c'è una separazione tra il momento politico amministrativo e il momento gestionale, insomma. Soprattutto poi nei piccoli comuni non è che quando cambia il sindaco cambia anche il responsabile dell'ufficio appalti o dell'ufficio tecnico che fa le procedure, per cui c'è una continuità da questo punto di vista del funzionario. E semmai il problema è quello di capire se ci sono ulteriori interventi da fare sul fronte della garanzia di trasparenza, insomma. L'altra considerazione che voglio fare è che non sempre il massimo ribasso è garanzia di qualità poi nell'esecuzione delle opere e delle cose. Può anche essere che ci sia una tendenza a fare più appalti, se non al massimo ribasso, ma secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, che considera anche diversi parametri. Questo può portare ad avere magari qualche ribasso minore, ma magari una migliore qualità complessiva poi dell'appalto e migliori garanzie. Ma invece sul punto, perché i due mandati non vanno bene, secondo lei? Il limite. Guardi, ci sono due questioni. Una è una questione di principio e di pari dignità di organizzazione del nostro sistema istituzionale. Adesso non me ne vorrà il presidente Formigoni, il presidente della mia regione, ma faccio fatica a capire che ha il terzo mandato dice. E al quarto siamo al quarto per cui si può fare quattro volte il presidente della regione Lombardia, non si può fare tre volte il sindaco di Morterone con 150 abitanti. E quindi c'è una questione, e questo vale anche per altri livelli istituzionali, insomma, se dobbiamo ragionare e riteniamo che l'elemento del limite dei mandati è un elemento di garanzia democratica, di rinnovamento, eccetera, facciamo un ragionamento. Cioè, valga per tutti, allora anche i parlamentari. La seconda questione però rapidamente è che c'è poi comunque una specificità della realtà dei piccoli comuni, la accennava lei introducendo la nostra discussione. Spesso la qualità e un buon amministratore fa la differenza per la vita di un piccolo comune, di una piccola comunità, di una piccola realtà. La possibilità di utilizzare competenze che statisticamente, insomma, si fa più fatica a trovare dentro piccole realtà che non su grandi numeri, fa una differenza. Sì, la difficoltà di un ricambio di persone disposte ad amministrare la cosa pubblica a livello, quando si è in una comunità molto piccola. Su questo Massimo Bugani, allora ricordiamo, Movimento 5 Stelle, capogruppo in Consiglio Comunale a Bologna, si è candidato sindaco, ha preso il 9,5%, è uno dei punti della lista di Beppe Grillo, no? Cioè non vivere di politica, quindi lei conta finito il mandato, via? Cioè bisogna lasciare per forza la mano a qualcun altro? 10 anni politica come servizio civile, proprio noi lo viviamo come un sacrificio, che poi è vero che ci dà anche tanta soddisfazione, però effettivamente crediamo che la politica debba essere vissuta in questo modo, quindi crediamo di aver dato il là a un nuovo corso e che prima o poi dovranno tutti quanti seguirci su questa strada. Io sentivo il signor Guerra che giustamente diceva e usava il condizionale: non dovrebbe creare una rete amicale di apparentamenti il sindaco che sta per 3-4 mandati allo stesso posto. In realtà quello che abbiamo visto noi sia nel comune di Bologna ma anche negli altri comuni dove ci sono le liste a 5 stelle, anche i più onesti, anche le persone più corrette, se governano per troppo tempo poi finiscono per favorire una rete amicale, parentale, che poi diventa una lobby. Qui a Bologna ci sono stati casi eclatanti, l'ex sindaco del Bono, che ha durato pochissimo in carica, era riuscito comunque a piazzare il suo avvocato nella municipalizzata ERA, che è l'azienda che qua segue la raccolta dei rifiuti. Ma lì adesso la vicenda non la conosco, ma non era neanche una questione di mandati, cioè poi voglio dire, uno può fare una cosa giusta in un giorno o sbagliata in un giorno che giusta in 20 anni, no? Non è... Sì, no, questo assolutamente, però cosa succede? Che qui a Bologna abbiamo un gruppo di persone, sono sempre quelle persone che alla fine fra posizioni in regione abbiamo Errani, che giustamente parlavate di Formigoni in Lombardia, che è al quarto mandato, noi abbiamo Errani, presidente della regione Emilia Romagna, che è al terzo mandato, terzo, sì. Sotto di lui ci sono una serie di persone che sono sempre le stesse, che fra regione, comune, provincia, incarichi dirigenziali nelle municipalizzate, da 20-30 anni si scambiano i posti, le poltrone sono sempre loro, quindi alla fine anche il nuovo sindaco, che dura in carica 6 mesi come era Del Bono, è all'interno di una rete in cui è difficile dare spazio ad altre persone che non facciano parte di quel gruppo. Lei dice il controllo poi dell'ente locale più o meno grande, che diventa una questione quasi di famiglia allargata nel senso lato. Da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Vorrò chiedere a Coviello di rispondere insomma a Mauro Guerra, Coviello, il nostro ricercatore, che ha detto ci sono questi problemi per chi rimane per più mandati con gli appalti vinti sempre più dalle stesse imprese eccetera, e Guerra dice ma il sindaco e gli amministratori sono fuori da queste questioni. Allora una risposta su questo dopo il traffico. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, ha detto che l'81% dei nostri ascoltatori si esprime a favore di questo limite di due mandati. Decio Coviello, insomma, vuole replicare a Mauro Guerra, che dice magari questi dati che avete trovato sono interessanti, però insomma, non dipendono gli appalti, le imprese locali, dalla questione del sindaco e degli amministratori, è così? Io volevo replicare brevemente, innanzututto grazie per l'interesse e diciamo suggerisco aprirei un confronto con Guerra volentieri quando e dove vuole, ma vorrei dire questo: il sindaco è vero che non ha diciamo un interesse diretto o diciamo delle funzionalità dirette con questi appalti, però con i nuovi poteri della riforma è vero che il sindaco può nominare i direttori dei lavori, e infatti quello che troviamo, parliamo di dati sempre, no? Quello che noi troviamo nei dati è che nei comuni grandi, dove ci sono più responsabili dei lavori in uno stesso comune, quando cambia il sindaco cambia sistematicamente anche il responsabile dei lavori, ad esempio per gli appalti pubblici. Cioè quando uno si vuol dire piazza i suoi uomini, che non è per sempre di per sé una cosa sempre negativa, voglio dire, no? Devono essere uomini di fiducia. Però come appunto diciamo il sondaggio mette in evidenza, sembrerebbe che la gente è contenta, che a un certo punto è disposta a tollerare questo piazzare magari i suoi, però a un certo punto questo va ricambiato, quindi forse il limite dei mandati ci vuole. Però Coviello, fa piazzare altre persone, l'alternanza. Coviello, un aspetto che mi pare di aver capito, io leggevo in un articolo di Alessandro Di Nicola un po' di tempo fa, dicembre 2010 sul Sole 24 Ore, un aspetto interessante mi sembra anche della vostra ricerca è che a volte al contrario limiti troppo stringenti possono portare anche ad effetti quasi perversi, perché il politico che magari sa che ha poco tempo poi non potrà essere più candidato, se è propenso sempre di base a fare qualcosa di un po' losco, allora dice è meglio che lo faccia in fretta perché tra 2-3 anni poi non avrò più il potere per farlo. Coviello, è così? Sì, questo è vero, c'è questo diciamo questo trade-off, no? Fra avere poco tempo o lasciare troppo tempo al potere. Noi però ancora una volta i dati ci suggeriscono che un termine in più costa di più ai cittadini, gli appalti pubblici costano di più. E poi volevo aggiungere sempre al commento di Guerra, ma diciamo noi troviamo anche che i ritardi dei lavori, cioè i lavori vengono consegnati più tardi quando un sindaco sta più al potere, quindi è vero che non è una misura di qualità degli appalti, però ci può dare un'indicazione di come sta il cittadino, paga di più il bene pubblico, lo ha dopo. E in tutto questo l'ha avuto perché il sindaco è stato un mandato in più. Allora, sentiamo 800240024 il parere di un paio di ascoltatori. Vi prego di essere brevi, sintetici. Francesco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Niente, io volevo semplicemente dire che l'81% degli italiani e anche buona parte degli ospiti che avete in studio oggi penso che vivono sulla Luna, perché non si rendono conto che l'Italia è composta fondamentalmente da comuni di piccola media dimensione, sì, dove vero. Non si trovano amministratori, non politici, perché fare l'assessore o il sindaco di un comune di 3, 4, 5 mila anima significa dedicare anima e corpo, rinunciare al proprio lavoro in parte e alla propria famiglia per un pugno di centinaia di euro. Quindi non si capisce come mai, proprio laddove il controllo del cittadino è diretto sull'amministratore, non c'è la possibilità di avere mandati di superiori 2 anni, mentre invece a Roma piuttosto che in regione, dove il controllo è meno diretto, invece non c'è. No, ma lei Francesco dice un po' come dice Mauro Guerra, cioè nei piccoli piccoli comuni il problema è oggettivo, ma c'è questa cosa, questo atteggiamento, non crede Francesco, un po' italiano di considerarsi indispensabili sempre? Cioè davvero in un piccolo comune anche di mille anime, se uno fa politica pensa che il proprio vicino di casa o comunque fa l'amministratore non sia in grado di farlo, perché io mi sento più indispensabile del vicino di casa, e questo io che capisco poco. Comunque la ringrazio. Giuseppe, sempre da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Voi. Senta, io volevo semplicemente fare un'osservazione su un intervento di uno dei vostri ospiti, sì. Scusa, non ricordo il nome di vediamo, prima, vediamo. In relazione al discorso degli appalti. Allora, è puramente una statistica basata sui numeri che gli appalti portati in comuni dove il sindaco rimane ha la responsabilità dura più in carica vengono pagati di più. E sono, non discuto il dato, può essere assolutamente vero, ma il problema non è lì. Il problema è che quando si fanno le gare al massimo ribasso si ha per forza di cose un lavoro e dei materiali impiegati nel lavoro che non possono essere assolutamente in linea con quello che dovrebbero essere, dato che i lavori pubblici non sono lavori, sì, a casa sua, a, sì, casa mia, ma sono lavori a casa lavori di pubblici. Tutti. No, ma è su questo, grazie Giuseppe. Mauro Guerra vuole replicare all'ascoltatore e le dico anche questo: c'è il caso di cui abbiamo parlato di Bonea in provincia di Benevento, dove il sindaco è stato 10 anni, 2 mandati, poi non poteva più, adesso è diventato sindaco suo figlio di 18 anni, dicendo non sa neanche cos'è una delibera, ma penserà tutto a papà. Non si deve preoccupare mio figlio, perché penserò tutto io. Ecco, queste sono le storture, Guerra, che possono anche capitare, no? È sbagliato, ma è una stortura che capita in un sistema che introduce un elemento di rigidità e che poi purtroppo viene anche aggirato con queste modalità. Forse, ma io volevo tornare un attimo sulle considerazioni che hanno fatto i due ascoltatori, che insomma, mi confortano nel ragionamento. Insomma. Noi dobbiamo guardare alla realtà concreta. Allora, prima, premesso che avrei piacere di continuare poi con Coviello in altre sedi questo, sì, confronto, sì, questa discussione, perché bisogna capire se si può intervenire anche e fare comunque qualcosa di meglio, ma devo fare 2 considerazioni rapidissime. Lui stesso diceva che il cambio, la sostituzione dei responsabili dei settori amministrativi che procedono poi agli appalti e alle gestioni avviene nei comuni di maggiori dimensioni. C'è una specificità: nei comuni di piccole dimensioni ci sono uffici tecnici con 1, 2, 3 dipendenti, non si cambia il responsabile ogni volta che cambia il sindaco, quindi c'è una, non è un automatismo, c'è una diversità concreta. La seconda considerazione, sì, la volevo fare anche qui, confrontandomi con un tema che è giustissimo, quello che pone Bucani. Il comune di 1000 abitanti è diverso dal comune di Bologna. Insomma, Lui faceva riferimento al vivere il comune piccolo. No, però Guerra, a me, guardi, mi viene voglia. Ieri, tra l'altro, l'ex sindaco di Bonea doveva essere il nostro ospite, ci ha dato buca. Adesso voglio fare una cosa, visto che abbiamo un minuto. Adesso voglio provare a chiamarlo in diretta senza avvisarlo. Vediamo se il cellulare è acceso, spento. È acceso, pronto, suona, boh. Questo è il numero del sindaco di Gennaro Paradiso, l'ex sindaco di Bonea Benevento. Vediamo se ci risponde oggi. Ci ha dato buca ieri in diretta, doveva essere qui a discutere con noi. È lui, è il numero, è lui, ma non risponde. E non ci risponde più, cioè, eppure abbiamo anche i numeri. Niente. Il sindaco, l'ex sindaco di Bonea in provincia di Benevento, ci aveva detto che interveniva. Niente, Wind, basta, è così. Niente, ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio, ma la discussione non continua. Poi vi metteremo in contatto, se vorrete, Decio Coviello, che è economista, ricercatore all'Università Tor Vergata a Roma, Mauro Guerra, vice sindaco a Tremezzo in provincia di Como e coordina la consulta ANCI dei piccoli comuni, e Massimo Bugani, che è stato il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Bologna, in cui il consiglio comunale è capogruppo. Ripeto, salutateci tutti, l'ex sindaco e il sindaco di Bonea, se passate di lì. Mi prometto di passare anch'io in provincia di Benevento, perché sta diventando un tormentone, no? Quello dell'ex sindaco che ha messo il figlio a fare il sindaco, ha messo il figlio, è stato votato, per carità. Ci fermiamo, grazie Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Filippo Aureggi in regia. Scriveteci a 24 mattino e radio24.it. Ci ritroviamo lunedì alle 7:20.